inglese è un limite. Quindi partire con un minimo di preparazione, essendo pronti anche a fare qualcosa che non si è sempre disposti a fare, quindi dei lavori di prima mano, delle esperienze che non possono essere subito gratificanti. Però diciamo che dalla mia esperienza all'estero ti dà la possibilità di avere un percorso lavorativo più stimolante di quello che avrei potuto trovare in Italia. Da chi ha lasciato l'Italia a chi nella penisola invece è tornato. Da quest'autunno abbiamo lanciato la nuova rubrica Controesodati, che ogni primo sabato del mese ci racconta storie di chi ha deciso di tornare in Italia e ce ne spiega il perché. La rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'associazione iTalents, dal cui network, lo ricordiamo, attingiamo le storie che vi raccontiamo per info italents.org. Riascoltiamo oggi una delle prime storie di Controesodati, quella di Sara Vitali, 28enne, lavora in Lombardia come consulente per il turismo sostenibile. Dopo alcune esperienze in Gran Bretagna e Australia, Sara è tornata per contribuire allo sviluppo del paese. Ci spiega perché in questa intervista, nella quale emergono pure diverse criticità e problematiche del ritorno in patria. All'estero sono stata per vari mesi, in diversi anni, nel senso che sono andata nel 2011 prima di laurearmi, nel 2012 sono tornata in Gran Bretagna e nel 2013 sono andata invece in Australia. E cosa facevi? Nel 2011 lavoravo all'interno di Codaivi, un'organizzazione che si occupa praticamente della biosfera dell'UNESCO. Nella seconda è stato più o meno simile. In questo caso mi occupavo sempre della parte turistica, di praticamente implementare la comunicazione tra il team della biosfera del North Devon Biosphere Reserve e la comunità locale e i turisti. A un certo punto decidi di tornare in Italia, innanzitutto perché? Perché comunque mi sarebbe sempre piaciuto lavorare qui e aiutare l'Italia a migliorare. E come hai fatto a tornare? Mi sono autocreata il lavoro, nel senso che non esiste in Italia una vera e propria agenzia di sviluppo turistico, che è quello che vorrei fare io, e per cui piano piano, lavorando un po' all'estero, lavorando un pochino in Italia con alcuni dei contatti che ho avuto grazie all'università oppure grazie alla vita sul lago di Como, ho potuto fare delle piccolissime esperienze anche qui e farmi un po' strada, ecco. E ora spieghiamo allora cosa fai, di cosa ti occupi esattamente adesso. Allora, adesso mi occupo sia di progettazione turistica, per cui quanto riguarda proprio la parte di lavorare con gli operatori turistici nella creazione di itinerari, piuttosto che nel migliorare le loro pratiche ecologiche, ad esempio per l'accommodation, ma contemporaneamente mi occupo anche della parte di comunicazione, perché ho notato nel corso degli anni che c'è veramente tanta difficoltà per le piccole imprese a capire che devono comunicare ed essere viste e raccontare proprio anche il fatto che sono sostenibili, altrimenti nessuno se lo può immaginare. Quindi nel tuo caso possiamo dire sei tornata e hai inventato una tua startup. Più che altro mi sono inventata come libero professionista. In un settore dove l'Italia chiaramente ha ancora molta strada da fare, sì, se ho capito bene. Esatto. Una cosa importante, quali sono anche un po' le opportunità e i rischi di un ritorno in Italia, cioè come l'hai vissuta? È un paese che frena l'iniziativa innovativa o al contrario è un paese che dà opportunità ai giovani? No, non ho mai avuto la sensazione di avere grandi opportunità in Italia, soprattutto per il fatto che non ci sono particolari incentivi per chi diventa libero professionista, nel senso che magari ci sono gli incentivi fiscali, però al di là di questo non ci sono, non so, dei corsi per diventare più imprenditore, avere una forma mentis diversa rispetto a quella che si può avere studiando, andando all'università. Parlando di strada davanti da fare, l'Italia anche nelle opportunità che deve dare ai giovani ne ha da percorrere. Come dovrebbe cambiare secondo te l'Italia proprio nel saper dare maggiori opportunità ai giovani? Domanda difficile. Sicuramente si dovrebbe aprire un maggiore dialogo, perché molto spesso i problemi che possiamo avere noi giovani iniziando un'attività anche imprenditoriale non sono gli stessi che i nostri colleghi imprenditori potevano avere 30 anni fa, e per cui sicuramente secondo me manca un dialogo aperto che faccia capire quali sono i reali bisogni al momento attuale. Siete controesodati, volete raccontarci il vostro rientro nella penisola? Scriveteci giovanitalenti@radio24.it.